Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Dunque, eccoci qua, siamo a Mebius. Finalmente insieme. Ciao Federico, buonasera a tutti. Allora, le barche a vela, avete presente quelle per le gare? Si buttano via, quando non funzionano più, si buttano via, finiscono in discarica come le sedie rotte. E poi oggi andiamo completamente da un'altra parte, vi raccontiamo l'anatomia del crimine, come si ricostruiscono le facce. Partiamo. Via. Rinco Benco, benvenuto. Grazie mille. Amministratore delegato di una società, nome? GS4C, che sta per Go Sailing for a Change. Go Sailing, quindi stiamo parlando di navigazione, di sailing è proprio riferito a barche? Riferito alle barche, navigazione in generale, comunque il background nostro è di vela, per cui la passione è quella. Background vuol dire che iniziate da lì, però in realtà, dopo lo vedremo rapidamente, c'è uno sviluppo assolutamente impressionante e affascinante che appartiene a queste grandi storie della scienza dei materiali contemporanea, che va verso la sostenibilità, che va verso la possibilità, diciamolo pure, di rivoluzionare il modo in cui utilizziamo i materiali, con un obiettivo molto preciso che è quello di non sprecare. Allora, nel preparare appunto questa intervista, tu mi hai dato una notizia che probabilmente nessuno immagina, cioè queste belle barche a vela da regata, dalle grandi regate anche alle regate più piccole, ce ne sono tante insomma, che insomma barche un po' performanti, in realtà quando hanno finito la loro stagione, adesso poi quanto dura, può durare una barca? Dipende dall'evento, dipende dalla stagione, dipende dal tipo di regate. Sì. Un Optimist può durare tantissimi anni, l'Optimist sono quelle barchettine piccole con cui fanno regate i bambini. Sì. Una barca di Coppa America dura un evento solo. Un evento solo, perché sono stressatissime. Però insomma, questi oggetti qui poi si buttano via, cioè non, finiscono in discarica. Finiscono in discarica, ci sono numerose barche di Coppa America che sono finite in discarica, ci sono numerose barche che sono finite abbandonate in cantieri e senza una seconda vita. Non sono più le barche di Coppa America di 100 anni fa che sono diventate bellissime barche da crociera, oramai sono barche che durano un po' come una Formula 1. Nessuno va in campagna con una Formula 1 usata, certo, che ha comprato usata, ma anche tutte le altre di attività di gara minori insomma. Ma perché finiscono in discarica? Non si riesce minimamente a recuperare? C'è un grossissimo problema di riciclo, ma questo non è legato solo alle barche, è legato al mondo dei materiali compositi. Mm. E i materiali compositi sono materiali fatti di tessuto impregnato di una resina che viene consolidata. E questi materiali che sono plastiche, sono materiali plastici che hanno una vita infinita e non hanno una seconda vita, non c'è un programma di riciclo di questi materiali. Non si riescono a frantumare, recuperare in altro modo? Si possono frantumare, adesso ci sono dei grossi progetti di ricerca per tritarli e inserirli come aggregati in altri materiali, vengono usati come additivi per altri materiali, cariche per delle resine o per del cemento. Però non c'è mai un ritorno al materiale originale. E quindi si butta via. E tanta quindi, roba si butta, tanta energia. Tanta energia che viene sprecata nel processo. Bene, voi a partire da questa realtà delle barche che avete scelto perché effettivamente nel modo migliore, diciamolo, fa notizia, cioè se lì si riesce a introdurre qualcosa di nuovo diventa più visibile perché se ne parla molto, state introducendo una filosofia completamente diversa. La filosofia parte proprio dalla costruzione. La costruzione in materiale composito ha tantissimo spreco durante la produzione. Il materiale composito parte da un filo che viene tessuto in tessuti che vengono sovrapposti, per cui tagliati su uno stampo, per cui tutto questo processo ha degli scarti che arriva ad essere intorno al 30%, per cui andiamo a pensare un oggetto di 2 tonnellate quando arriva sugli scaffali per essere pronto per essere usato ha lasciato 500 kg in discarica. Sono tanti e non c'è un programma di recupero di questi qua. Questi materiali poi soprattutto la politica è di andare a scegliere dei materiali che costano poco, in modo che non sia un problema per il cantiere buttarli via, per cui non c'è neanche la volontà di andare a lavorare su questi scarti. Quindi proprio un ciclo assolutamente non virtuoso. I materiali invece che proponete voi? Noi abbiamo fatto questo processo di ricerca e di scouting di nuove fibre e abbiamo identificato questa fibra, che è una fibra a base di basalto, che permette, grazie a un controllo di qualità molto, molto stretto da parte del produttore, permette di essere reinserita nuovamente in fornace a fine vita. Basalto è lava. Basalto è lava. Il 60% della crosta terrestre è lava. Il problema grosso del basalto è che ogni eruzione dà delle composizioni chimiche diverse, per cui c'è stato un processo molto lungo da parte di questo produttore per reinventare completamente il processo e trovare la quadra, se si vuole, su questo materiale. Ecco, qua in studio Enrico Benco ci ha portato un filo. Io in questo momento ho in mano un rocchettone di quelli, sì, assomiglia molto, ma molto più in grande a quelli che abbiamo quando poi dobbiamo attaccarci i bottoni, e questo è un filo di basalto. E poi ho in mano anche, questo sembrerebbe un nastro isolante, è mollissimo ed è lo stesso filo che è diventato invece già un tessuto, quello che poi si utilizza nelle applicazioni di cui stiamo parlando. Scusa, ma il basalto da dove lo prendete e dove in generale dovremmo prendere? Sono miniere a cielo aperto, perché certo, come lava, per cui ci sono queste miniere a cielo aperto. Sono stati identificati alcuni giacimenti dove c'è una composizione chimica particolare, questo viene arricchito poi in una seconda fase con altri minerali, viene fuso di nuovo, riportato allo stato di lava e fatto passare attraverso questi pettini in cui escono dei filamenti da 9 micron. Cioè io con questo ci faccio una barca e dopo ritorno a questo. Posso ritornare a quello, perché questo materiale qua tiene a temperature altissime, per cui anche in fase di riciclo, quando la resina viene tolta, viene bruciata via da quello che è il materiale composito, la fibra mantiene le sue caratteristiche, può essere riportata nella fornace, rifusa e riportata a fibra vergine. Dalle barche si può andare... Le barche sono un esempio, quello che diciamo sempre noi, se riesci a fare una barca riesci a fare qualunque cosa. La barca galleggia su acqua salata, sta esposta al sole, che sono i due ambienti più pericolosi per i materiali in genere. Deve essere leggera e deve sopportare delle sollecitazioni abbastanza sofisticate, per cui se si riesce a fare una barca si può poi andare su tutto il resto del mondo dei materiali compositi, che sono un po' dappertutto, magari noi non ce ne rendiamo conto, però dalle pale eoliche ai piatti doccia, alle macchine di Formula 1, e sono sempre la stessa tecnologia che usa materiali diversi, più o meno sofisticati, più o meno costosi, però l'approccio è molto simile. Abbiamo applicazione anche in edilizia, perché alla fine il cemento armato è un materiale composito, certo. È cemento rinforzato di ferro, il ferro dà tantissimi problemi perché comunque prima o poi arrugginisce e va a spaccare. Ci sono già tantissimi studi per andare a sostituire il ferro con delle fibre. Dove stiamo andando noi è andare a ragionare in termini di sostituire la resina con il cemento. Perfetto. Va bene, grazie. Spero che vada grazie sempre di più bene la vostra attività. Ciao. Grazie mille. Dopo le barche, le auto. Vediamo cosa ci dico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ricostruzione facciale, ma non è che vi stiamo per parlare di cose che riguardano la chirurgia estetica, ma di anatomia del crimine, che è anche il titolo di un saggio, Storie e segreti delle scienze forensi, scritto da Val McDermid, che è una autorevole e famosa giallista americana, e edito da Codice e le Scienze. Allora, ricostruzione facciale vuol dire quando si trova in un buco, in un terreno, ovunque, dei resti, anzi, cerchiamo di essere precisi, un teschio, no, può essere estremamente utile ricostruire, beh, a questo punto è l'espressione, il volto, no, facciale, il volto. Sì, questo per identificare in qualche modo la vittima e capire se in che modo, insomma, è arrivato lì. Esatto. E però adesso vedremo che appunto non si tratta di avere una prova netta, si tratta di mettere in moto un meccanismo. molto interessante. Ne parliamo con Davide Porta. Buonasera Porta. Buonasera. Lei è un tecnico di laboratorio dell'Abanov, che è un nome simpatico, buffo, non è un poeta russo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? L'acronimo per Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense. Che si trova qui a Milano. A Milano, l'Università degli Studi, sì, facciamo parte dell'Università degli Studi. Allora, io ho detto ricostruzione facciale, ho identificato, come dite voi, la scena del crimine, abbiamo un teschio. E anche dal libro sono venute un po' di domande, quindi per questo insomma che l'abbiamo chiamata. Certo. Ecco, allora Federico è sulla scena del crimine, dice di vedere insomma questo teschio. A quel punto che cosa succede? Cioè che cosa si mette in moto? Fatto il sopralluogo con le forze dell'ordine, questi resti si portano in laboratorio. Se non c'è nessun sospetto di identità, per cui non ha documenti, non c'è un'idea di chi possa essere, questo è uno, quello che noi chiamiamo sconosciuto puro, cioè uno di cui non si sa nulla. E allora, dopo aver costruito un identikit sulle sue ossa, che è la prima cosa che si fa, quindi il sesso, la razza, l'età, eccetera, eccetera, si trasforma questa serie di informazioni in un'immagine. Ok, la ricostruzione facciale, che appunto che non c'entra con la chirurgia, ma è un metodo per ridare un volto a una persona partendo dal suo cranio, ci dà appunto un'immagine che può servire, se diffusa, diciamo così, a sufficienza, può servire a richiamare, risvegliare un ricordo. Questa è la funzione della ricostruzione facciale su casi attuali. Ecco, a prima vista i teschi sembrerebbero tutti uguali, ovviamente per un inesperto. Tutti molto simili, perché è una struttura simile a tutti quanti, però ci sono una serie di differenze, no? Sono tutti diversi, sembrano uguali ma sono tutti quanti diversi, come le facce hanno tutti dei nasi e delle orecchie, ma sono tutte diverse. Ok, il metodo, che è appunto questo metodo che ha più di un centinaio di anni, è abbastanza semplice come idea, nel senso che in diversi punti del cranio ci sono diversi strati di spessori di carne, chiamiamola così, no? Di tessuto molle. Quindi esiste una banca dati, che è stata costruita negli anni, appunto nei decenni, di spessori tissutali, cioè quanta carne c'è sulla fronte, quanto sulla guancia, quanto sulla bocca, eccetera, eccetera. In base a questa tabella si sistemano sul cranio questi spessori, ci sono 32 punti, quindi si preparano 32 spessori tissutali basandosi sulla tabella, si incollano sul cranio, questi possono essere stuzzicadenti, dei pezzettini di gomma, no? Quindi siete in una specie di porcospino, sembra, no? Una faccia tutta, un cranio con tutte delle punte, e questo mi dà il limite esterno del volto. Noi ci immaginavamo che voi faceste insomma questa ricostruzione con dei sofisticatissimi software rendering, invece no, fate tutto a mano. Facciamo tutto a mano, nel senso che questa cosa parte a mano e il metodo si è sviluppato a mano. A questo metodo manuale si affiancano adesso dei metodi al computer, che però partono dalla stessa banca dati e hanno gli stessi errori, no? Se ci sono degli errori nel metodo, se lo portano dietro anche i computer. Ecco, ma dobbiamo immaginarci, per esempio, una guancia nella quale ci sono tanti, come degli aghi, e questi aghi però, che certo sporgono anche molto, però su ognuno di questi c'è come una tacca che è relativa a uno spessore che lì, ecco, però lì dovrebbe esserci, questa banca dati non può dare lo spessore della persona specifica, no? Cioè uno poteva essere più paffutello o più magro, insomma. Com'è che tirate fuori proprio lo spessore di quel personaggio lì? No, lo spessore è purtroppo, esatto, sono delle medie, e quindi questo cozza con la singolarità di ogni volto, che è un insieme di punti unici, no? Perché è una roba quasi filosofica. C'è una media matematica per lo spessore, diciamo, in mezzo alla fronte, però ogni persona potrebbe, cioè io potrei avere uno spessore leggermente maggiore, lei uno spessore leggermente più piccolo, però non abbiamo niente, il metodo è molto semplice, gli strumenti sono questi. Ma allora Porta, quello che viene fuori è che non è assolutamente come noi tutti pensiamo, cioè il cranio ha una sua personalità. Dopodiché esatto, c'è un certo insieme standard di spessori, ma quando io li applico la specificità del cranio viene fuori, perché a quel millimetro aggiunto in quel punto del cranio del signor Tal dei Tali viene fuori qualcosa che è sua, è così. Gli spessori sono la prima cosa che si vedono nel metodo e si stanno quasi per abbandonare, nel senso che ci danno soltanto un'idea di dove finisce la faccia. Ok? È solo una guida, è un aiuto, tant'è che agli spessori si affianca la ricostruzione anatomica del volto, cioè il muscolo che segna l'osso è fondamentale per riempire i grossi spazi. Sì. La fronte ha su 2 millimetri, no? di tessuto molle, ma le guance sono piene. Sì. I muscoli, che sono quelli più grossi della masticazione, influenzano moltissimo, per cui gli spessori tessutali mi permettono di non costruire una faccia gigantesca su un cranio di dimensioni normali, no? Quindi mi danno un limite, okay, oltre il quale non posso andare. A questo, come dicevo, si affianca la ricostruzione anatomica, quindi dove sono messi i muscoli, okay? L'insieme di questo mi dà un'idea di come poteva essere la faccia. Un primo step, okay? Certo. È un primo step, che è l'unico step che abbiamo, perché più il cranio è caratteristico e più siamo facilitati, chiaramente. Quindi un cranio molto lungo mi darà una faccia molto lunga, un cranio quadrato mi darà una faccia quadrata. Okay. Però è chiaro. I dettagli del singolo volto... Cioè, ad esempio, il naso, la forma degli occhi, la forma delle sopracciglia, certo, quella è difficile da ricostruire per voi. Quella è molto difficile, ci sono dei punti, no? Che noi seguiamo, delle regole che seguiamo... adesso si stanno sviluppando una serie di altri piccoli di sottometodi, chiamiamoli così, però quello che viene fuori è appunto un'idea di com'è un'idea. Infatti serve a risvegliare il ricordo, ecco. Non è una fotografia. Adesso ci arriviamo, però ci domandavamo se uno fosse un po' più paffuto, un po' più magro. Certo, questo non è facile da ricostruire. Non è facile, perché lo scheletro non ci dice quanto è grosso una persona, ce lo dicono, se siamo fortunati a ritrovarli, i suoi indumenti, per esempio. Ah, giusto. Okay? Perché ci sono i resti globali, no, a disposizione. Per esempio, lo scheletro è recente, ed è trovato sottoterra, trovato in un bosco, eccetera, eccetera, le parti sintetiche più o meno rimangono, le etichette dei vestiti rimangono, e quindi una taglia della persona ce l'ho. Ok. No? Certo, guardate, diciamo, tutto ovviamente il contesto, tutta la scena. Insomma, se aveva dei mutandoni un po' grandi vuol dire che era un po' grassotto. Se aveva l'etichetta XL, insomma, capiamo che era in carne. Grosso. Esatto, questo non vuol dire però che la faccia sia grossa, ci basiamo su quello. Infatti, certo, di questi spessori, per finire il discorso, noi abbiamo tre pacchetti, diciamo così, no? Per individui più magri, normali e un pochettino più grassi. In base a quello, se troviamo qualcosa dei vestiti, scegliamo la tabella giusta, diciamo così, e scegliamo gli spessori giusti. Okay. Ma tutto ciò è per avere un suggerimento che possa mettere in moto una certa modalità, una modalità più avanzata di inchiesta. Certo, perché quello che a noi manca, nel caso in cui non ci sia un sospetto, è proprio il sospetto di identità. Quindi la ricostruzione facciale è la fine di un processo che noi chiamiamo appunto di costruzione di profilo biologico, no? Quindi è la trasformazione di quelle informazioni, come dicevo all'inizio, in un'immagine. Se noi riusciamo a mandarlo fuori e avere un feedback dall'esterno, quindi un nome, allora a quel punto la ricostruzione facciale ha fatto il suo lavoro e subentra una serie di altri esperti, dalle forze dell'ordine agli antropologi, a mille altre persone che vanno più nel dettaglio. Se io ho un nome, posso recuperare una cartella clinica, no? Certo. E affrontarlo con quello che abbiamo. Quindi il fine è quello. Poi, chiaro, più ci assomiglia, meglio è, facilitata, no? Ecco, quindi diciamo, finito tutto il lavoro minuzioso che ci raccontava appunto con gli spilli e gli spessori, a quel punto voi restituite una serie di immagini, quindi non una sola immagine ovviamente dell'ipotetica persona, ma una serie di identikit che possono aiutare poi le forze dell'ordine a recuperarne l'identità. No, noi restituiamo un'immagine con tre proiezioni, okay, diciamo così, tre. Quindi un frontale, un laterale e un tre quarti, per dare un'idea di come è fatta la faccia. La restituiamo, se riusciamo, in televisione o sui giornali, ok? La domanda è, ma io potrei fornire delle diverse opzioni, no? Un po' più magro, un po' più grasso. Col naso lungo, col naso corto, certo. Esatto, qua si entra purtroppo in un campo estremamente interessante, ma molto complicato, complesso, che è quello della percezione, no? Quindi, se una persona che non ne sa nulla è a casa sua, è tranquilla sul divano, se io gli do tre facce, potrei metterlo in difficoltà. Quindi devo dargliene una, ma questo è tutto un altro discorso. Meglio dare un buon suggerimento di base. Uno senza confondere di più. Che è un rischio, perché è chiaro che se io ti do 10 possibilità è più facile per me, no? Ecco, sì, infatti quello immaginavo. No? E invece no, perché si è visto che è più difficile, anche perché poi il tempo che abbiamo a disposizione sono pochi minuti, no? Se quando si va a chi l'ha visto ci sono 30 secondi, 25, quindi ti devi giocare tutte le carte lì. Dare tre facce diverse sicuramente è più completo, no? Però può confondere, certo. Però può confondere, esatto, può confondere. E stiamo parlando con delle persone che si devono poi esporre, perché qui la parte psicologica è fondamentale, si devono esporre perché devono dire sono talmente convinto che potrebbe essere la persona che conosco che chiamo in televisione. Arriveranno le forze dell'ordine, mi dovrò confrontare, la gente è abbastanza pigra ultimamente, quindi la parte più difficile è dopo ricostruzione facciale, più che la ricostruzione facciale. Un'ultima cosa mi viene in mente, non è possibile che appunto attraverso questa vostra ricostruzione anche le forze dell'ordine, facendo diciamo un confronto con quelle che possono essere le liste dei dispersi, così riescano loro stessi, facendo l'indagine, a trovare l'identità, oltre che ovviamente chiedendo l'aiuto delle persone pubbliche? Per loro è molto difficile, adesso sto parlando di cose che non so, ma che so vagamente, loro dovrebbero avere una banca dati della gente che è scomparsa. Ah, ok, che non c'è. Che non c'è, è molto difficile confrontare, a mano è impensabile, loro avranno migliaia di denunce di scomparsa al giorno, no? Su tutto il territorio italiano, per cui immagino che sia impossibile passarsi a mano tutte le foto, no? E non esiste un programma in grado di confrontare delle immagini. Altro problema che abbiamo noi, no? Quindi non esiste un software che abbia la capacità del cervello umano di confrontare velocemente una serie di immagini e capire quella a cui che sono somiglianti. Sì, anche però se... loro, se hanno un sospetto di identità, loro basta che chiami qualcuno, sì. A quel punto loro partono con le loro indagini. Ok. Sì, okay. L'importante è mettere in moto qualcosa. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Quindi anche se il cranio ha una frattura, no? Sulla testa, che si vede da vivo, sapete le cicatrici che si possono vedere, e il volto non assomiglia per niente, è fondamentale, no? Perché io riesco a portare in televisione un cranio che ha una caratteristica che può risvegliare il famoso ricordo di cui parlavamo. Chiarissimo, va bene, grazie Porta, davvero un buonissimo lavoro. Perfetto, grazie mille, arrivederci. Ricordo ancora il titolo del saggio, Anatomia del crimine, scritto da Val McDermid e edito da Codice Le Scienze. Tra l'altro è molto divertente perché praticamente è un giallo, è pieno di casi più o meno risolti di certo, teste, gambe trovate. Che però abbiamo utilizzato insomma come spunto per raccontarvi tutto questo. Brivido. Sì, però devo dire molto affascinante, veramente le scienze forensi secondo me sono veramente tra le scienze quelle che ispirano davvero più interesse. Corpi sepolti, non c'è niente da fare, una roba che andremo avanti a parlarne per ore, ma il tempo a disposizione è terminato. Buona settimana a tutti e a tutte, ciao. Ciao.